avanzare, mare dopo sta a fare qua, guardiamo se c'è quella pia di merda lì, si chiama qua davanti nel cruscotto. Non ho capito, Giuseppe, la pila. Sai che mi ha dato la pila dentro qua nel cruscotto lì? Secondo me è andata dentro nelle prese d'aria qua. Ah, quando è caduta l'altro giorno. Dopo ci guardiamo, dai, vediamo come si alza. Dobbiamo alzare qua dai fusibili, vediamo se si vede qualcosa. Ma secondo me è andata proprio andata dentro la bocchetta dell'aria, sai le bocchette davanti? Ecco. Non sempre, dopo ci guardiamo. Sembra andare su un filo con una calamita lunga, ma la pila è stata cassata anche dalla parte sinistra del secondo me, va sempre quei condotti lì, no? Cappa. Ma vedete dove si è fermato in qualche curva o qualcosa? Andiamo ad Alghero, siamo qua. Quasi. Castindino potremmo andare, un po' vicino. Abbiamo pagato il biglietto, poi che ci rimane e andiamo a spendere. Positivo. Castindino ci è andato, col camion vecchio ci è andato un paio di volte. Sono le saline lì, i parcheggi, lì c'è un parcheggio grande. E dopo vai a piedi sulla spiaggia. Capate adesso c'è già qualcosa lì, eh? Ah, può essere. C'è fra una ventina di chilometri da Porto Torres. Dimmi. Ok, eccomi. Ci sei, sì. Cosa ho fatto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sì, che sto scendo bene. No, siccome c'ho l'apparecchio aperto io, hai capito, per l'avventola, controllare l'avventola funziona. L'ho controllato adesso con la batteria, sembra che giri, con la batteria 9 volt. Quindi a un certo punto adesso vediamo un po' cosa è cazzo c'è. Quindi ho comprato due motorini per mi rimarranno da una parte, me li conservo e vaffanculo, meno male mi è andata bene, adesso vediamo un po' perché non funziona la ventola, se no prendo e l'alimento direttamente diretto vaffanculo. Ma che cosa? Non so di che parecchio sta parlando, cioè del e del che volessi da 140 perché non raffreddava e quindi a un certo punto quando non raffredda mancava l'audio, capito, in trasmissione. Adesso sta bello perché ce l'ha aperto e quindi è tiepido e non c'è nessun problema. Se vediamo quando scalda come la mettiamo, vediamo se parte la ventola, via il piatto e a posto. Forse magari era questione di c'è un po' di polvere, io la tolgo e è fatta. Sì, magari c'è polvere dopo del genere, se non funziona controlla che non ci sia polvere. Ho provato la batteria di quella dove vuoi se funziona, quindi in pratica l'alimentazione dovrebbe essere 6 qualche cosa. Sono andato a scusa la batteria, ho comprato due di quei motorini, uno a 12 e l'altro a 6 volt, così almeno ce l'ho di riserva. Ho pagato 6 euro. Ma c'è qualche timer che la fa partire? Quando scala. Dovrebbe partire con un coso, non con il timer. C'è un, come si chiama, come ti posso dire? Agganciato ai finali ci dovrebbe essere un aggeggio che in pratica fa scattare l'alimentazione, ma ho controllato e l'alimentazione c'è, hai capito? E se è qualche cosa, se vuoi, è qualcosa. Quindi è a posto, solamente magari sporco il motorino e basta. Magari c'è qualche relì. Come sto scendo di bene, è bene, ha voglia, si è uscito benissimo. Sì, ma detto che sembra che ci sia l'eco, e io ecco la mia vergo. No, ecco, non te lo sento. Ecco, lo sento solo quando vai in coso, cazzo. Su TikTok lo sento. Quando canti ti metti l'eco, cazzo. Mi sembri l'abbandante di Giovanna, cazzo. No, quello lì è effetto karaoke, si chiama, non è ecco. Capito? Infatti mi è venuto la video, non per altro, perché quella tipa lì che la banda di Giovanna quando andava a fare il karaoke in via Giovanni Pascoli usava l'eco, cazzo, capito? Un giorno sono andato lì, ho detto, ma scusa, perché cambia diavolo usi l'eco? Gli ho detto, scusa, hai detto che sei cantare, cosa diavolo usi a fare l'eco? Per togliere la sua attua, gli ho detto, come fanno i cantanti per adesso. No, già so cantare io, e si vede, gli ho detto, infatti, c'è l'eco, cazzo. Non ti vedi, cazzo, che sei tutta quanta stonata, gli ho detto. Se uno non sa cantare, ma con l'eco canta bene. Io non posso cantare anche se c'è ecco, problemi, non ne ho. Lo so, io sparo solamente di quella tipa lì, hai capito? Che usava l'eco per cantare lì alla per farci 100 euro a serata, hai capito? Lì in quel circolo, lì da Giovanni Pascoli, te lo ricordi che c'era un circolo lì, non so se c'è ancora la verità, ma lei in pratica cantava, faceva 2 euro e faceva 100 euro, capito? No, io non so per contatto dei circoli, non lo so, non le conosco. Quando io vado a cantare a karaoke, vado a Black Store, oppure nei locali dove si mangia e si canta anche, ma nei circoli non ci vado mai. Ah, ma questo già era un circolo, vabbè, già era ben frequentato, ma però cazzo, quando l'ho sentita io gli ho detto, mamma mia, gli ho detto, io ho detto, ma dove l'hai portato, gli ho detto, e dice, canta qui, mi ha detto, dice questa, questo canta, c'è una sonatura, gli ho detto, allucinante, ho detto, se lo diceva il cazzo, ho detto, sento questo eco, ho detto che c'è stato di chi fu a vedo, ho detto. Ma l'eco ti dà l'affetto cara, per quello che si mette. Cioè, quando tu canti al karaoke ci sono i vari effetti, c'è scritto effetto karaoke, effetto blues, per tutti i tipi di musica, capito? Lo so che ci sono gli effetti, lo so da, perché amici secondo te cazzo, come cantavano, c'avevo i miei microfoni con gli effetti, capito, c'era quello di colore verde, poi c'era quello di colore rosso, c'era l'altro, capito, non è che nascono imparati, devono piano piano farsi le ossa, il discorso è quello lì, ma l'importante è intonarsi, il discorso è più che altro gli davo, hai capito, il tono per potersi regolare, eccetera, eccetera. Nessuno è stato imparato a cantare, la verità. A meno che non canti in questura, che il discorso è diverso, ma... Comunque, ecco, lo usano tutti, anche i concerti, lo usano tutti i posti. Quando canti, ecco, un po', ma non la sai, è appena. Poi a me piace, sia il monachio, sia lo sai, io sono appassionato. Sì, già lo so, ti ho visto, non ti preoccupare. Ti ho visto su un paio di volte, hai capito? Perché mi ha visto TikTok con Giovanna, no, peraltro. C'è quella ragazza che canta, che è una cosa allucinante, quella che canta insieme a te, quella è proprio brava. Quella con i capelli neri. E io canto con uno di tipo, hai capito? Ce n'è una che praticamente una cantante proprio, capito? Una che canta insieme a me. Io ho visto, penso che sia quella, non lo so, io ho visto una cantante con i capelli appena ricciolati, che canta, ma canta veramente bene. Stavi cantando tu, stavo cantando la teoria addirittura. Eravate assieme. Tutti e due accoppiami. Tutti e due, tu sì. Ci ha fatto diversi. Io mi diverto a fare i viaggi, mi diverto, canto anche fuori, non sono a casa, faccio TikTok, canto anche fuori, quando mi capita lo faccio anche nei locali, cosa quando cantano, canto anche io. Ah beh, quello sì, io ho fatto un giorno al circolo lì vicino a Fabio, c'era un tipo, per carità, ti veniva ad andare a casa in bagno, proprio ti veniva il lato fuori, ti veniva a casa, dalle tette, da mettere la trovata. Voi invece c'era un tipo che era veramente brava, era di lusso, era. Hai capito? E mi ricordo ascoltava più che altro, nessuno era imparato, ma piano piano uno si fa le ossa cantando anche in casa. Hai capito? Ci sono quelli che hai visto quelle due ragazze che una volta si cantavano lo spiccio, che hanno fatto quei dischi, dopo che sono sparita la circolazione. Te lo dico anche tu. E cantavano quella specie di cosa allo specchio. Sì, parola. Ha fatto parlo chiaro, ma comunque una specie di cosa, non mi ricordo adesso come cavolo era, una specie di filastrocca era, quindi figurati, ma comunque sia, si impara anche a casa, anzi, forse più a casa che fuori, la verità, aiuto, dai, parte, cazzo. Mussolino, non venuto, cazzo. Allora, vediamo un po', il finale Toshiba sono bollenti. Nulla da fare. Ci apriamo un po' il ferro. Non volevo partire. Strano. Non volevo partire, no. Mi partito, cazzo, è partito. Ce l'ho fatta. È partito adesso, è partito. E lo vale. Se non mi dà un becco, mi scaldare la pericola, non è che non passa. Ehi, a cazzo, ora, cazzo, forse era sporco, cazzo. Ah, lo senti che bella avventura. Vabbè, non lo puoi sentire adesso, ma stai cominciando a raffreddare, è partito. Era male. Adesso la pesco con la spazzola, fa poco e la ripiazzo, va. Rimango un attimo in quell'X, perché quando mi lavavo l'altro giorno piove e spariva l'audio, cazzo, a un certo punto. Avevo cazzo tirato la coppia di microfono, cazzo, mi girava le balle, mi girava una cosa del genere. Si è andato in successione, da questo. Infatti. Vabbè, dai. Lasciami il tempo di piazzare, come si chiama? Spengo l'apparecchio, ripiazzo un nuovo la ventola e lo riesco a posto. Ci stiamo dopo, da. A pieno mio hermano deve associare la sandina, no? A pieno mio hermano deve associare la sandina, le grandi non comprendido. E ci sento. E ti sento, non ti preoccupare. Quindi. Dammi tempo di piazzare tutto, va, così almeno se vedo che parte prendo e richiudo tutto e se la biglia in culo è fatta. Ho fatto un bel lavoro almeno. Ho una spatolata per la polvere e così è tranquilla. Meno male che sono cambiato lì. Vabbè, ho pagato 7 euro, due motorini, così ce l'ho di riserva. Allora, visto che c'è il team, domanda segnale di Santiago. Prova. 1, 2, 3, 4, 5. 9 più 25. Che è meglio? La muratura 5 a bomba, a voglia. Sono stato io o sono chiaro di radio? Chiarissimo. Ok. Ah, vabbè, aspetta un attimo. Sentato adesso saturerà, perché non è. Ecco, non è raffreddata ancora la cosa. Guarda un po' sul saturo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dove picchi che dovrebbe essere normale. No, certo, è un po' compresso, sì, Antonio, un po' compresso. Guarda adesso il segnale come ti arrivo. 9, 25, appena compresso, già va bene. Ok, va bene, richiudo tutto e ci sentiamo fra 10 minuti in 4 ore. Va bene, ci sono qua. C'è qualcuno su 10 che vuol parlare? Ciu. Ciao, Stella. Ma avanti su di.